notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Attacco ad un hotel di stranieri a Kabul in Afghanistan. Ci sono 14 vittime, tra cui un italiano. Era un consulente bergamasco che lavorava nel paese. La riforma della scuola approda oggi alla Camera. Renzi racconta la riforma su YouTube. Secondo l'autority sugli scioperi, il blocco degli scrutini sarebbe illegittimo. Nuovo picco per il debito pubblico a 2.184 miliardi, comunica Banca Italia. Sulle pensioni il governo studia l'ipotesi di rimborsi solo per i trattamenti previdenziali bassi. Ancora dubbi e finora solo ipotesi sulla morte del ragazzo caduto da un balcone mentre era in gita a Milano. La madre chiede verità ai suoi compagni di classe. 3.000 tifosi ad accogliere la Juventus all'aeroporto di Torino dopo la vittoria contro il Real Madrid e l'approdo in finale di Champions League. Ieri 11 milioni e mezzo davanti alla TV per la partita. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra sezione sul sito www.radio24.it durante la diretta, il numero di sms, il 349-238-6666. Prima di andare a quello che è successo in Afghanistan, un aggiornamento appena battuto dalle agenzie: sono leggermente peggiorate le condizioni dell'infermiere di emergency contagiato dal virus Ebola e ricoverato da ieri l'Istituto Spallanzani di Roma. Il paziente, dicono comunque lo Spallanzani, è febbrile, lucido e collaborante. Da questa notte è comparsa una sintomatologia gastrointestinale importante e questo il quadro del bollettino medico comunicato dallo Spallanzani. Se avremo aggiornamenti naturalmente ve li daremo. Andiamo dunque in Afghanistan, l'attacco a Residence dove c'erano molti stranieri tra cui un italiano. Cristina Carpinelli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, la Farnesina in tarda mattinata qualche ora fa ha confermato che tra le vittime dell'attacco al Palace Park Hotel di Kabul c'è anche un cittadino italiano. Si tratta di Sandro Abati, 48 anni, di Alzano Lombardo, quindi nel bergamasco, consulente per un'agenzia di investimenti. Esclusa anche l'ipotesi che era circolata sempre in mattinata che tra le vittime ci fosse anche un secondo italiano. Nell'attentato avvenuto ieri sera in uno degli hotel più frequentati da stranieri a Kabul sono state uccise anche altri 10 stranieri, tra loro un americano e 4 indiani, 6 i feriti. Non è ancora chiara la nazionalità delle altre vittime. L'attacco è stato rivendicato in mattinata dai talebani. Sono morti anche i 3 attentatori, oltre 40 invece le persone che sono state tratte in salvo dopo ore di assedio dell'hotel. L'attacco è avvenuto, tra l'altro questo è un elemento che va sottolineato, all'indomani della visita in Afghanistan del premier pakistano Zarif, che si era impegnato a sostenere proprio il governo di Kabul nella lotta contro i talebani. Ovviamente il cordoglio di tutto il governo italiano, soprattutto a parlare è stato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che tra le altre cose ha detto anche questo attentato dimostra che la situazione in Afghanistan e a Kabul è ancora molto complicata. Per ora è tutto. Grazie Cristina Carpinelli per questi aggiornamenti. Ed era un commerciante di vino e olio del Sassarese, Giuseppe Piras, l'italiano fra le 7 vittime del disastro ferroviario avvenuto sulla linea Washington-New York, del quale vi abbiamo parlato ieri. Si trovava negli Stati Uniti per lavoro ed ha preso il treno dell'Amtrak deragliato alle porte di Filadelfia dove era per raggiungere alcune attività commerciali. Oggi approda alla Camera il DDL Scuola, mentre prosegue il confronto e Renzi interviene con un video su YouTube. L'aula di Montecitorio ha iniziato in mattinata la discussione generale sulla riforma della scuola. Il voto finale è atteso per mercoledì. Il governo ha fatto sapere che non chiederà la fiducia. Dopo lo scontro sull'Italicum, la minoranza Dem annuncia invece battaglia, pronta a far valere il suo peso, soprattutto in Senato, dove i numeri per la maggioranza sono più a rischio. Anche alla Camera, la sinistra del PD ha comunque presentato una serie di emendamenti su alcuni dei punti sui quali anche i sindacati sollecitano modifiche, in particolare sui precari, sui poteri dei presidi e sui finanziamenti destinati alle scuole. Prima con un video e poi anche con una lettera indirizzata ai professori. Intanto il premier Renzi ieri è tornato a difendere la riforma, ha aperto al dialogo, ma ha anche detto no ai boicottaggi dei test invalsi e al blocco degli scrutini. Un'ipotesi quest'ultima sulla quale non tutti i sindacati sono d'accordo. Sul blocco degli scrutini oggi è arrivato anche l'alto là dell'autorità di garanzia per gli scioperi, che ha minacciato la precettazione contro una forma di protesta giudicata illegittima e dannosa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo ai dati di oggi sul debito pubblico diffusi dalla Banca d'Italia e alle ultime indiscrezioni su quello che il governo starebbe pensando per rispettare la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco delle rivalutazioni delle pensioni oltre 3 volte il minimo. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno e partiamo allora, Simone, dal debito. 2 mesi record uno dopo l'altro per il debito del nostro paese. Il massimo si era già raggiunto a febbraio con 2.169 miliardi, marzo va oltre arrivando a 2.184,5 miliardi. In crescita anche le entrate. Secondo la Banca d'Italia a marzo queste sono state pari a 27,7 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2014. E sul debito ci sono già i primi commenti. I dati erano attesi, dice il presidente di Confindustria Squinzi. Bisognerebbe cominciare a pensare, aggiunge Squinzi, a tagliare la spesa pubblica. Di altra doccia fredda per il governo Renzi parla dall'opposizione Brunetta. Fonti del Ministero del Tesoro fanno però notare che il valore è in linea con le previsioni e frutto di alcuni aggiustamenti tecnici. Sempre da via 20 settembre confermano intanto la linea che starebbe seguendo Palazzo Chigi per risolvere la grana pensioni creata dalla sentenza della Consulta. Il target di spesa possibile ormai è stato identificato tra i 3 e i 3,5 miliardi da reperire tra tesoretto e incasso dal rientro dei capitali, risorse che dovrebbero essere sufficienti per restituire uno dei 2 anni di blocco dell'indicizzazione e solo per gli assegni più bassi, soluzione che secondo il governo sarebbe compatibile con la sentenza della Corte Costituzionale. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Torneremo più avanti a parlare di questo tema e torneremo a parlare con una delle 2 associazioni che ha presentato ricorso presso la Corte Costituzionale per capire come hanno intenzione di comportarsi nel caso appunto il governo prenda una decisione di questo genere, ossia rimborsare solamente i pensionati con trattamenti previdenziali bassi. L'agenda sull'immigrazione è stata presentata, ma l'iter per la sua attuazione richiederà tempo. La Commissione ha mantenuto la parola formulando una nuova agenda europea per le politiche di immigrazione e dell'asilo, ma per ora l'agenda è una proposta e affinché diventi realtà ce n'è di strada da fare. Primo punto sarà tradurre le linee guida in progetti legislativi, che dovranno poi essere approvati dal Parlamento e dal Consiglio europeo, sapendo già che nello specifico delle quote obbligatorie di ricollocazione dei migranti, Berlino e Parigi sono favorevoli, ma Londra e molti paesi dell'Est no. E non dimenticando nemmeno che gli stessi trattati che ammettono la possibilità di istituire le quote obbligatorie concedono a Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca la facoltà di non partecipare al meccanismo. La proposta legislativa su questo tema sarà elaborata dal Collegio dei Commissari del 27 maggio, quindi non prima degli inizi di giugno arriverà al Parlamento e ai ministri dell'Interno dell'Unione, che la potranno discutere nel Consiglio del 15 giugno. I leader dei 28 paesi, invece, l'affronteranno nel vertice del 25 e 26 giugno, la stessa occasione in cui parleranno della questione del reinserimento di 20.000 richiedenti protezione internazionale dai campi profughi, su cui nel frattempo la Commissione dovrebbe aver proposto la sua raccomandazione al Consiglio europeo. Ed è anche la stessa data in cui, da calendario, affronteranno il tema di un'eventuale operazione militare in Libia contro gli scafisti. La proposta è in discussione già da lunedì prossimo tra i ministri degli esteri e della difesa dell'Unione europea, ma il varo non sarà comunque prima del vertice di fine giugno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Parliamo adesso di un'inchiesta pubblicata dalla Sole 24 Ore di oggi che fa il punto sul business delle intercettazioni. Tra l'altro è in edicola da oggi il primo dei 20 numeri, dei 20 libri della nuova collana del Sole 24 Ore, ora legale, e sono 20 volumi con storie di eroi di mafia e di antimafia. Oggi si parte con il libro di Giovanni Falcone, Cose di Cosa Nostra. Saluto Roberto Galullo, che oltre a curare questa collana ha anche realizzato l'inchiesta che troviamo pubblicata oggi. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi radioascoltatori. Ti porterei innanzitutto su questo tema del business delle intercettazioni, un tema del quale che rimane un po' sotto traccia, per così dire, però sul quale manca una regolamentazione complessiva. Il punto mi sembra che sia quello, Roberto. Sì, il punto è assolutamente quello. quello, il paradosso è che questo mondo di circa 150 imprese che lavorano sull'intelligence, sulle intercettazioni, che producono un fatturato annuo di oltre 300 milioni compreso l'indotto, sono privi di una legge. E quindi in buona sostanza il tutto viene fatto sull'intuito del procure o della polizia giudiziaria, che si affidano ad imprese di fiducia, quindi è la fiducia il legame, diciamo il vincolo che lega la chiamata di un'impresa alle procure che poi decidono di mettere sotto intercettazione determinati soggetti. Tutto regolamentato, Roberto, da un regio decreto addirittura. Sì, beh, infatti siamo veramente fuori dal mondo, perché il decreto è del 1931, come scrivo nell'inchiesta odierna, un altro mondo e un'altra epoca, quando ancora non si sapeva neppure cosa fossero quasi le intercettazioni, soprattutto le intercettazioni ambientali e telefoniche nella moderna accezione, senza dimenticare che poi queste imprese fanno anche videoriprese, cioè accompagnano con filmati quelle che sono le investigazioni e le inchieste delle procure. Ormai siamo abituati alle immagini che vengono anche, ringraziando di Dio, propinate ogni giorno dai telegiornali, con arresti a raffica nel mondo delle mafie e del terrorismo. Roberto, non si può escludere nemmeno, dici nel tuo servizio di oggi, che anche la criminalità organizzata possa mettere le mani in questo business. Guarda, questo lo dico io, perché da buon giornalista riporto delle fonti. Io posso anche pensarlo, ma il mio pensiero conta zero. Quel che è drammatico è che purtroppo ci sono dei riscontri, delle indagini anche espletate o probabilmente anche in corso di espletazione, che testimoniano come alcune cosche in Calabria, in Sicilia, ma anche altrove, hanno trovato il modo anche di entrare, ovviamente con dei prestanomi, in questo delicatissimo settore. È un settore che rimane per molti versi opaco. A dire che il subappalto ad esempio non è possibile, ma a dire che purtroppo il subappalto c'è ed avviene tra interessi diversi, non è il sottoscritto ma il capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, che infatti lo racconta in una audizione in Commissione parlamentare antimafia l'11 dicembre 2014, della quale ovviamente i giornali si sono ben guardati bene dal dare sul punto conto. Grazie a Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Vi ricordo che i dettagli dell'inchiesta li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola, e oggi con il Sole 24 Ore parte questa nuova collana Ora Legale, questi libri sulla mafia, soprattutto sull'antimafia. Oggi si parte con Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone. Siamo alle novità nell'inchiesta sulla morte di un ragazzo in gita a Milano. Un post su Facebook per chiedere la verità. Antonia Comin, madre di Domenico Mauro Antonio, insegnante, vuole sapere cos'è successo a suo figlio, lo studente 19enne, morto cadendo dal quinto piano di un hotel a Milano durante la gita di classe. Ho affidato il mio unico figlio all'istituzione scolastica per un'uscita, mi verrà riconsegnato cadavere, ha scritto. I compagni di classe del liceo scientifico Ippolito Nievo di Padova tacciono forse per paura. Gli inquirenti sono sicuri che qualcuno di loro conosca i fatti. Ci sono ancora troppi vuoti nella ricostruzione. La testimonianza di chi c'era quella notte è fondamentale. Bisogna capire, tra l'altro, come sia accaduto e perché da una finestra il cui davanzale è a 1,10 m da terra e profondo 40 centimetri. Si ipotizza che il ragazzo ci sia salito volontariamente per motivi da appurare e che probabilmente non fosse da solo. I lividi ritrovati sul suo braccio, segno di una forte presa, dimostrerebbero che qualcuno ha cercato di evitare la caduta di Mauro Antonio senza riuscirci. Un'ultima questione da appurare è se il ragazzo avesse assunto droghe o fosse sotto l'effetto di alcol. I risultati degli esami dovrebbero arrivare entro un paio di giorni. Oggi intanto la salma tornerà a Padova, venerdì i funerali. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare al traffico ci sentiamo un'intervista realizzata ieri dal nostro Dario Ricci, inviato a Madrid, che ha assistito al passaggio del turno della Juventus, che dunque è in finale di Champions League. Una serata fantastica per la Juve, 11 milioni e mezzo di persone in Italia davanti alla TV e 3.000 persone ad accogliere la squadra all'aeroporto. Protagonista indiscusso, diciamo, è Morata, che tra l'altro è un ex giocatore del Real. Sentiamo l'intervista di Dario Ricci. Alvaro, allora complimenti contro il Barcellona, però esulterai, te la stai conservando questa esultanza? Sì, però primero devo segnare, se no non posso esultare, aspettiamo di vincere questa Coppa e penso che i nostri tifosi lo meritano tanto e noi daremo tutto per vincerla. Penso che lo abbiamo meritato tanto e penso che abbiamo fatto una grande partita e adesso possiamo continuare sognando e dobbiamo continuare lottando. Anche oggi abbiamo giocato contro i grandi giocatori che sono dei migliori del mondo e abbiamo fatto una grande partita. Penso che se continuiamo lavorando con questa umiltà e con questo lavoro che facciamo tutti i giorni, penso che possiamo vincerla. Si soffre un po' a segnare comunque al tuo Real? Sì, è una sensazione strana. Quando uno non ha voglia di esultare un gol è perché si vede che c'è tanto rispetto e che l'altra squadra è nel cuore. Siamo a quasi due settimane dalle elezioni regionali. A partire da 15 giorni prima non si potranno più pubblicare sondaggi, più dar notizia di sondaggi. Cogliamo l'occasione, questo è uno degli ultimi giorni, per parlarvi di quello realizzato dal CISE insieme al Sole 24 Ore, ma lo facciamo dopo il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Attacco ad un hotel di stranieri a Kabul in Afghanistan, ci sono 14 vittime tra cui un italiano. La riforma della scuola approda oggi alla Camera, Renzi la racconta su YouTube. Secondo l'Authority, sugli scioperi il blocco degli scrutini sarebbe illegittimo. Nuovo picco per il debito pubblico a 2.184 miliardi. Sulle pensioni il governo studia l'ipotesi di rimborsi solo per i trattamenti previdenziali bassi. Ancora dubbi e finora solo ipotesi sulla morte del ragazzo caduto da un balcone mentre era in gita a Milano. La madre chiede verità ai suoi compagni di classe. Parliamo adesso di politica. Siamo in fase di par condicio, quindi questo è uno degli ultimi momenti nei quali potremo parlare di sondaggi. Proprio perché siamo in par condicio, ve lo dico, è uno dei motivi per i quali abbiamo trattato così poco le elezioni regionali. Non ci siamo occupati, per esempio, di alcune liste che hanno creato molti dubbi e molti problemi, delle quali ci saremmo voluti occupare, perché nel caso ci fossimo occupati di quelle liste avremmo dovuto occuparci di tutte le altre liste, rendendo questo programma un inferno. Però abbiamo un sondaggio generale e qua, proprio perché siamo in fase di par condicio, vi dirò alla fine vi farò un riassunto di quella che è stata la metodologia, da chi è stato realizzato e così via. Saluto il professor Roberto Dalimonte. Il sondaggio è pubblicato oggi dal Sole 24 Ore e insieme al CISE, il centro studi guidato dal professor Dalimonte. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, non c'è nessuno tra i leader politici in questo momento in capo che raggiunge la sufficienza da parte degli italiani, nemmeno Renzi. Sì, è così. Cioè, chiedendo agli italiani di votare come a scuola, quindi con una scala da 1 a 10, il risultato è quello che ha detto lei, che Renzi è quello meno sgradito. Ma in un quadro in cui appunto non c'è un leader politico che goda il favore della maggioranza degli italiani. Gli altri sono molto distaccati da Renzi, perché nel caso di Renzi i giudizi negativi sono intorno al 60%, negli altri casi vanno dal 70% a quasi il 90%. Per quanto riguarda le percentuali dei singoli partiti, abbiamo un PD che rispetto alle europee appare nettamente in calo, 36,4%, Movimento 5 Stelle al 23,5%, Lega Nord al 15%, Forza Italia al 12,2%, li leggo tutti perché li devo leggere tutti, Sinistra Ecologia e Libertà più 4 al 4%, al 3,16% il Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia al 2%, mezzo punto percentuale per il Partito Socialista, così come per Rifondazione Comunista, i Verdi allo 0,06% e altri partiti al 2,27%. Quindi, professore, un calo per il Partito Democratico, ci sembra di poter dire. Un calo rispetto all'europeo, ma in realtà le intenzioni di voto al PD si sono stabilizzate negli ultimi mesi. Il calo si è registrato qualche mese dopo l'europeo, ma ripeto, negli ultimi mesi le intenzioni di voto, quindi sono sempre stime, ricordiamoci, non sono voti, si sono stabilizzate intorno al 36-37%, quindi diciamo, certo, calo rispetto all'europeo, ma in linea con gli ultimi mesi. In linea con gli ultimi mesi, in linea anche con quello che risulta dagli altri sondaggi. E Lega al 15%. Ecco, invece la Lega negli ultimi mesi ha costantemente guadagnato qualcosa, e poi l'abbiamo visto in Trentino-Alto Adige, quindi queste stime sono state almeno in Trentino-Alto Adige confermate dai voti veri. Poi avete posto delle altre domande, professore, avete fatto porre delle altre domande in merito alla situazione dell'Italia e non sembra che gli italiani né giudichino che ci sia stato un grande miglioramento dal punto di vista economico né che né si dimostrano particolarmente ottimisti sui prossimi mesi. Ma sui prossimi mesi in realtà c'è una domanda in cui c'è una percentuale abbastanza significativa, pensa che le cose possono andare meglio, però la nota dominante è quella che ha detto lei, è una sfiducia e il pessimismo, questo è il clima che ancora prevale nel paese ed è per questo che poi i giudizi sui leader e sul governo sono quelli che ha detto lei, sono sostanzialmente negativi e questo, questa è la ragione, la sfiducia, la rabbia, il pessimismo. È tutto questo legato alle preoccupazioni, questo emerge nettamente da questo sondaggio e da altri, legato alle preoccupazioni sui posti di lavoro, sull'economia, sul reddito, la situazione economica in sostanza. Questa è la chiave di lettura di questo sondaggio e del clima che prevale nel paese. Un'ultima domanda che le voglio fare riguarda i nostri rapporti con l'Unione Europea. L'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, c'è un giudizio, diciamo, equamente diviso, mi sembra di capire. Ci sono molti che non rispondono, però c'è un giudizio equamente diviso tra a chi non piace particolarmente e chi la giudica una cosa positiva e chi la giudica una cosa completamente negativa? Beh, la domanda più importante è quella sull'euro, perché come dire, una specie di referendum sull'euro e sulla base delle stime di questo sondaggio sembra che i due terzi degli italiani in realtà non vogliono, pur essendo critici, come ha detto lei, una buona parte degli italiani è molto critica nei confronti dell'Europa, però alla domanda se uscire dall'euro o meno, i due terzi dicono no e circa un terzo dice di sì. Ora, qualcuno potrà dire che un terzo sono tanti, però è la questione di chi è mezzo pieno o mezzo vuoto. Io penso che in un clima di questo genere, con questa sfiducia generalizzata, il fatto che ancora oggi due terzi degli italiani preferiscono stare dentro l'euro invece che fuori, è un fatto positivo. Tra l'altro questo è vero sostanzialmente anche in Grecia, dove stanno molto peggio che da noi. La ringrazio, grazie al professor Dalimonte, le auguro una buona giornata. Il sondaggio, adesso la parte burocratica, condotto da Demetra tra il 4 e l'8 maggio, 1000 interviste con un campione rappresentativo della popolazione oltre i 18 anni, con metodo Cati e Cami, ossia telefono fisso e mobile, 1000 le interviste su 13.000 contatti. Questo il quadro. Tra l'altro c'è anche una parte del sondaggio che riguarda l'immigrazione. L'Italia dovrebbe chiudere le frontiere per bloccare l'immigrazione extracomunitaria. Si dice molto d'accordo il 31,4%, abbastanza d'accordo il 18,8%, poco d'accordo il 16,3% e per niente d'accordo il 31,68%. Qua molto equilibrato, anche se la maggioranza è per la chiusura delle frontiere. Proprio di immigrazione parliamo, lo facciamo con Giorgio Innocenzi, che è un sindacalista del CONSAP, un sindacato di polizia, il segretario generale. La saluto, Innocenzi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Parliamo però di una vicenda specifica. Questa mattina è successo questo. Tre cittadini algerini che dovevano essere espulsi sono stati messi su un aereo all'aeroporto romano di Fiumicino e mentre l'aereo era già in movimento hanno aperto il portellone di emergenza e sono di fatto riusciti a scappare. Io voglio capire, Innocenzi, mi aiuti, perché lei avrà sentito anche i suoi colleghi che lavorano là, avrà insomma qualche contatto, mi aiuti a capire com'è possibile una cosa di questo genere, che in un posto controllato come un aeroporto tre persone aprano una porta d'emergenza, scendano dall'aereo e poi spariscano nel nulla. Sì, dunque, purtroppo conferma il fatto, io ho qui sotto mano la foto dell'aereo con lo scivolo, insomma, quindi voglio dire la riprova che il fatto è avvenuto nonostante qualche timida smentita. E il fatto purtroppo non è nuovo, perché noi da tempo denunciamo il fatto che gli algerini, che peraltro non erano oggetto di nessun respingimento, si trattava di cittadini in transito, quindi voglio dire cittadini che regolarmente hanno comprato un biglietto di volo. Ah, cioè nella fattispecie erano cittadini in transito? Sì, sì, perché vede, la tratta diciamo Algeria-Istanbul è una tratta diciamo attenzionata, sì, nel senso che i cittadini algerini la acquistano questi biglietti regolarmente e poi la utilizzano Roma, dove per motivi tecnici viene effettuato questo scalo, per allontanarsi, per scappare, per per entrare in Europa, per in entrare, sostanza. Perfetto, per entrare in Europa. Noi denunciamo da tempo questo fatto, che questa tratta è pericolosa e i cittadini non sono, quindi noi possiamo semplicemente in via del tutto precauzionale intercettarli e vigilarli, cioè noi li vigiliamo finché non salgono a bordo. Poi quello che succede a bordo purtroppo l'abbiamo visto, hanno forzato il portellone, hanno approfittato un momento di difficoltà e hanno addirittura impedito il volo, perché poi gli altri, diciamo così, utenti dell'Airbus hanno dovuto prendere un altro aereo perché quello è rimasto bloccato. Resta la mia domanda, Innocenzi. Sì. Allora, posto che uno mette in atto questa cosa, va al portellone d'emergenza, lo apre, scende con lo scivolo e scappa via. A me è il dopo che interessa. All'interno di un aeroporto come l'aeroporto di Fiumicino, un aeroporto internazionale, negli aeroporti, gli aeroporti teoricamente sono i luoghi più controllati che ci siano. Com'è possibile che questi facciano perdere le loro tracce e spariscano nel nulla? Purtroppo adesso intanto sono, diciamo così, abbiamo attivato tutte quante le possibili attività per rintracciarli. Il problema è questo: si tratta di scali aeroportuali dove c'è la necessità di fare degli accorgimenti tecnici da parte delle società. Voglio dire, lei sa bene che quando acquistiamo un biglietto aereo paghiamo anche un quid per la cosiddetta sicurezza. Si tratta di spese che le società aeroportuali debbono fare per migliorare la qualità del servizio di sicurezza, perché quelle sono competenze loro. Non sempre vengono fatte, purtroppo Fiumicino risente di queste anomalie che ci sono. Noi da tempo denunciamo questo fatto, che potrebbe essere risolto anche attraverso un espediente tecnico, cioè noi chiediamo che questa tratta così delicata, che ha dato luogo purtroppo a fughe ripetute, sia dotata di un visto di transito, cioè in modo tale che evitiamo questo problema delle fughe degli algerini. Insomma, purtroppo per ragioni politiche, per ragioni forse anche economiche, non viene fatto e quindi noi dobbiamo poi avere, oltre quelli che arrivano diciamo puntualmente tutti i giorni, anche questi algerini che scorazzano per il territorio nazionale. Grazie Giorgio Innocenzi, segretario generale del CONSAP. Abbiamo la nostra Alessandra Tedesco in diretta dal Salone del Libro che inaugura oggi, inaugura col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alessandra, buongiorno. Buongiorno Simone, qui è stato un discorso puntato sull'ottimismo, quello di Mattarella, qui all'inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Talvolta, ha detto il Capo dello Stato, in Italia c'è un eccesso di pessimismo, ma bisogna guardare al futuro per dare una ripartenza all'Italia. Mattarella ha sottolineato più volte che i libri hanno a che fare con la libertà e la speranza. Oggi c'è il rischio di individualismo, di rottura del patto generazionale, ha detto. Il cittadino rischia di essere solo. Dobbiamo reagire e in questa la cultura è decisiva, il sapere resta un fondamentale valore democratico. Sentiamolo. Leggere non è soltanto una ricchezza, una risorsa privata destinata al singolo individuo. Leggere è una ricchezza, una risorsa per la società, è un bene comune, è un antidoto all'appiattimento, è davvero ossigeno per le coscienze. La lettura non può essere ridotta a consolazione o a semplice svago, è piuttosto una porta sul mondo. Il futuro è nelle nostre mani, ha concluso Mattarella, aggiungendo che l'Italia non si rassegna alle difficoltà, ma ha in animo di superarle. Qui da Torino è tutto. Grazie Alessandra Tedesco dal Salone del Libro che apre oggi. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo con il presidente di Manager Italia, che è una delle due associazioni che ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per le pensioni e lo ha vinto, e vogliamo sentire che cosa hanno intenzione di fare nel caso il governo proceda ad un rimborso solamente delle pensioni più basse. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Attacco ad un hotel di stranieri a Kabul in Afghanistan, 14 vittime tra cui un italiano. La riforma della scuola approda oggi alla Camera. Nuovo picco per il debito pubblico a 2.184 miliardi, comunica la Banca d'Italia. Peggiorano le condizioni dell'infermiere di Emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma per aver contratto Ebola in Sierra Leone. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, abbiamo parlato del DDL sulla scuola. Ebbene, come sapete, è previsto da questo disegno di legge sulla scuola che si possa assegnare il 5 per 1000 alle scuole, appunto. Ebbene, ci sono le associazioni che normalmente ricevono il 5 per 1000 che protestano su questo tema, dato che si incrocia anche con la riforma del terzo settore in arrivo. Sentiamo l'analisi di Valentina Furlanetto. Da anni ormai maggio è la stagione delle ciliegie e del 5 per 1000. Se ci fate caso, in metropolitana o lungo i viali, la maggior parte delle affissioni pubblicitarie rimanda un solo messaggio. Testimonial famosi o immagini di povertà invitano ad evolvere il 5 per 1000 a onlus e associazioni. Adesso ci si mette pure la scuola. La buona scuola, infatti, prevede che questo strumento, finora servito a sostenere solo il terzo settore, possa essere devoluto anche agli istituti scolastici, addirittura indicando a quale istituto indirizzarlo. E questo danneggerebbe le associazioni, creando un'insana competizione fra poveri. Per questo 8 associazioni fra le più conosciute, dal FAI a Save the Children, passando per Telethon, hanno deciso di protestare. Ma il meccanismo del 5 per 1000 funziona e quali sono le sue distorsioni? Gli ultimi dati resi noti in marzo dall'Agenzia delle Entrate rivelano che quasi 17 milioni di italiani hanno firmato per il 5 per 1000, per un totale di oltre 395 milioni di euro. La gran parte è andata a sole 3 associazioni, gli enti più grandi, più famosi e più ricchi. Perché il meccanismo è perverso. Se una onlus è conosciuta, è più facile che al contribuente venga in mente il suo nome nell'atto di compilare il 730. Insomma, il rischio è non solo quello che si crei una competizione insana con le scuole, ma anche che la stessa cosa possa succedere con le scuole, che a quel punto, per avere più finanziamenti, dovrebbero farsi pubblicità, spendendo fondi che andrebbero necessariamente sottratti al bilancio generale di quell'istituto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Su questi temi sicuramente torneremo. Guido Carella, presidente di Manager Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che sono in ascolto. Manager Italia, insieme a Federmanager, è una delle due associazioni che ha presentato il ricorso che poi ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non conforme alla nostra carta fondamentale il blocco per 2 anni della rivalutazione delle pensioni, 3 volte il minimo. Carella, nel caso il governo, come sembra profilarsi, non intenda, l'ipotesi che sembra profilarsi, non intenda rimborsare tutto, o in termini di anni, cioè dice facciamo solamente un anno di rivalutazione, o in termini di trattamenti previdenziali, cioè non oltre i 2.000, i 2.500 euro, voi come vi comportereste? Un intervento che preveda rimborsi solo ad alcune fasce di pensionati, oppure, come diceva lei, una graduazione con restituzioni parziali, sarebbe ancora una volta, a nostro avviso, illegittimo. Noi siamo pronti, nel caso dovesse essere questo tipo di decisione, a rifare un ulteriore ricorso alla Corte. Tra l'altro, tutti quelli che percepiscono oggi un trattamento superiore a 3 volte il minimo saranno legittimati a chiedere il rimborso della rivalutazione non corrisposta per il 2012 e per il 2013, e tra l'altro anche a chiedere le rivalutazioni sulla base, su una diversa base di calcolo che tenga conto di questo recupero anche per il 2014 e il 2015. Quindi, noi non abbiamo una chiusura pregiudiziale, però aspettiamoci, se il governo non ascolterà le associazioni, i pensionati potranno fare ricorso facendo valere questa eccezione pregiudiziale di incostituzionalità, e questo, diciamo, porterebbe ulteriori scompensi alle casse dello Stato, perché allo Stato toccherà pagare anche le spese processuali e gli interessi. Aspettiamoci un ricorso in massa. Ma non le sembra, Carella, una forma di ingiustizia, se vogliamo, anche nei confronti delle generazioni? Se ne è parlato molto di questo, cioè se il governo a un certo punto decidesse va bene, non facciamo sopra i 3.000 euro o i 3.500, non lo facciamo. Va bene, la progressività è nei fatti già, da quando si calcola la pensione a come si gestisce poi durante le pensioni, ma però oltre alla progressività che noi condividiamo e che già paghiamo,